Siamo qui in questa mattina surreale in cui centinaia di cittadini arrivano cercando il mercato, un mercato annunciato, pubblicizzato anche dalla stampa, e alla vigilia della firma della convenzione, del patto di collaborazione, ci siamo trovati una versione non concordata degli accordi con l'amministrazione, inaccettabile, insomma, in cui ci venivano raddoppiati i costi di occupazione del suolo pubblico rispetto a quanto ci aspettavamo e quanto siamo effettivamente in grado di pagare, e oltretutto non era più previsto la pettolarizzazione della piazza. Cioè, vedi, anche adesso che siamo in pochi passano le auto in mezzo alla gente e non ci sono 15 banchi e non ci sono mamme con bambini a fare la spesa. Cioè, non è accettabile anche dal punto di vista della sicurezza, quindi su questo non siamo assolutamente disponibili a perdere la vivibilità di una piazza, di un mercato che per noi non è solo un mercato, è anche un luogo, appunto, di incontro dei cittadini. Con le macchine che passano in mezzo non è fattibile, quindi speriamo che il comune ci ripensi e la gente si faccia sentire, perché molti oggi ci tenevano, gli anziani erano qua la mattina presto, le mamme stanno arrivando adesso, però sicuramente anche la solidarietà che stiamo ricevendo speriamo che porti qualche frutto. La settimana prossima risolviamo i problemi e possiamo essere qui sabato prossimo con i banchi, con i prodotti, insomma. I produttori hanno coltivato tutta estate per avere roba tutto l'inverno per questo mercato, quindi sarebbe un peccato buttarla, come è già successo, tutta l'estate, perché questo mercato doveva partire a maggio, aprile-maggio, è 2 anni che facciamo riunioni, non è mai successo che fosse così difficile fare un mercato, che peraltro ci è stato richiesto dalla Social Street, con incontri con i quartieri, con i consiglieri, cioè, richiesto dal territorio, non è che siamo voluti noi infilarci qua per forza in un quartiere ostile. Non riusciamo a capire qual è la strategia che c'è dietro, se sono solo problemi tecnici o di incompetenza, ma speriamo qualcuno ci metta mano.